Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il 29 maggio del 1962 al Madison Square Garden di New York. Il grande teatro ospita più di 17.000 spettatori. Stanno applaudendo isterici da più di due ore. Hanno pagato $1,000 di biglietto per essere presenti al galà più atteso dell'anno. Un galà per raccogliere fondi a favore del Partito Democratico. Un galà per celebrare un compleanno importante. Il festeggiato? Probabilmente molti di voi lo avranno già intuito, ma lasciamolo per il momento nell'anonimato. Non è lui che ci interessa, non ora. Alla serata sono presenti moltissimi artisti di quell'epoca. Il tenore Robert Merrill, che canta l'inno americano. Danny Kaye, attore, interprete, cantante. Uno showman completo. Ella Fitzgerald e il suo trio. E ancora Henry Fonda, Jack Benny, altro attore e presentatore, Jimmy Durante, anche lui cantante e famoso attore caratterista, e Peggy Lee, ironica attrice e cantante jazz. First time I had the fever, they said I had the kissing disease. They said that it was quite contagious, so I didn't even dare to sneeze. I give you fever. If I kissed you, fever, if I held you tight. Fever in the morning, fever all through the night. They play it on the runway in Paris. The models do a sassy walk. They know just the way to swish it, while the local yokels stand and gawk. They give them fever when they do it. Insomma, ci sono un sacco di star, ma quella serata newyorkese non verrà ricordata per tutte le celebrità che si alterneranno sul palcoscenico presentate dall'intrattenitore Peter Lawford, ma per un'unica presenza che in più di tre ore di show si fermerà sul palco solo 7 minuti, mandando in visibilio i 17.000 più uno del Madison Square Garden. Quella presenza è naturalmente femminile. Il suo nome d'arte è Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Marilyn è in ritardo. Marilyn è ubriaca. Da questa serata al Madison Square Garden, l'attrice segnerà definitivamente il suo destino in una tragica discesa che la porterà sino alla morte. Se pensate di sapere tutto dell'incrocio di vite che ha segnato la vita di Norma Jean, preparatevi a diverse sorprese e certamente a qualche delusione. Cominciamo dai protagonisti indiretti della nostra storia. Li introduce Ayman Engelberg, il medico personale di Marilyn. La prima volta che entrai nella sua villa, stava bevendo champagne e mentre lo faceva ingoiava un paio di pillole per dormire alla volta. Protagonista numero 1, il Nembutal. Un sonnifero ipnotico, capace di gettare un essere umano nel nulla, spegnere la realtà. Quel tanto che basta per non sentire il peso di vivere. Marilyn soffriva di una sindrome maniaco-depressiva. Aveva grossi problemi emotivi, grandi sbalzi di umore. Protagonista numero 2, L'Amital. Uno psicofarmaco ora capace di dare euforia, ora di portarti nel profondo blu. Il suo agente era evidentemente preoccupato e mi diede le chiavi del suo appartamento, così io avrei potuto entrare in qualsiasi momento fosse stato necessario. Protagonista numero 3, il Demerol. Un antidolorifico capace di azzerare ogni sensazione. Compagno di sventura di Elvis, di Michael Jackson, che ne scriverà in musica. Hot! Ma la lista dei compagni di viaggio di Marilyn non finisce qui. Ecco entrare in scena il più importante, il protagonista numero 4, lo champagne. Marilyn beve in continuazione. È un destino già segnato dalla depressione e dalla solitudine? Può darsi, ma può darsi anche il contrario. Hollywood è vuota. Hollywood consuma rapidamente. Marilyn, nel 62, ha 36 anni. Da 10 è la grande star della 20th Century Fox. Per quanto ancora potrà durare? 2, 3, 4 anni? Non vuole mendicare parti secondarie. Lei è abituata al gradino più alto, qualunque sia la scala. No, deve trovare una strada alternativa. Ha bisogno di sentirsi la prima, sempre. Lei si sente come una first lady, come afferma l'amico produttore Gene Ellen. People think it's ridiculous that she thought that she could be first lady. La gente giudicava ridicolo il solo pensare che Marilyn potesse diventare first lady. Ma se guardi indietro e ti chiedi se quella donna avrebbe potuto sposare il più grande campione di baseball, e lo ha fatto, e poi il più grande autore americano, e lo ha fatto, capisci bene che nella mente di Marilyn niente era impossibile. In Marilyn's mind she could do all these things. Nella mente di Marilyn si affollano i pensieri. Non ha nessuno con cui confidarsi, nessuno, a parte la sua coppa di champagne. A lei non interessa l'ennesimo love affair. E le voci della sua relazione con John Fitzgerald Kennedy animano più i sorrisi maliziosi che il rispetto della gente. Al Madison Square Garden, il presidente degli Stati Uniti sta commentando gli auguri di Marilyn, come si fa con un regalo di compleanno. Quando si sono conosciuti JFK e Norma Jean? Diversi anni prima, intorno al 1954, a casa di Peter Lawford, suo cognato. Adesso posso anche ritirarmi dalla politica, dopo aver ricevuto gli auguri di buon compleanno cantati per me in un modo così dolce e sensuale. Il matrimonio con la sorella del presidente non ha cambiato la mia vita. Sono consapevole della situazione. Quello che è successo non mi ha cambiato. Ad esempio, sono sempre alla ricerca di un impiego. Peter Lawford fa l'attore e l'intrattenitore. Non è una cima, si barcamena, ma vanta un'amicizia importante con il senatore. Ne sposa la sorella Pat per interesse. Le sue feste sono famose, vi partecipano i grandi di allora, la Callas, Clark Gable e Marilyn, che si presenta fresca di matrimonio con Joe DiMaggio. Marilyn ha già avuto una storiella con Lawford, che la presenta all'amico, allora senatore, John Fitzgerald Kennedy, il quale ne rimane folgorato. Marilyn è fresca dei successi di Gli uomini preferiscono le bionde e Come sposare un milionario. I want to marry him for your money. Marilyn ha sposato un giovane sconosciuto per tirarsi fuori da un orfanotrofio. Ha sposato un eroe dello sport, Joe DiMaggio, per entrare nell'immaginario di milioni di americani. Infine ha sposato un colto drammaturgo, Arthur Miller, per entrare nel gota dell'arte dalla porta principale. Non è difficile cogliere un obiettivo preciso. Un obiettivo non ancora raggiunto. Sposare chi? Marilyn e JFK si incontrano clandestinamente nelle ville, a New York, durante la campagna elettorale. Kennedy diventa presidente degli Stati Uniti d'America, alternando la sua vita politica a quella di marito, padre e amante. Ogni occasione va sfruttata sino in fondo, e quella sera del 1962 al Madison è una di quelle. Ma torniamo a qualche giorno prima di quel 19 maggio, sul set dell'ultimo film dell'attrice, Something's Got to Give. Marilyn ha accettato di girarlo, o meglio, è costretta dal contratto. Ma non c'è con la testa. Odia quel film, odia il regista, George Cukor, odia la Fox, che ha un disperato bisogno di lei per rimettersi economicamente in sesto. Accanto a lei, Dean Martin, che la sostiene in tutte le scene. All right, come on. Adam and Eve. I was afraid you'd misunderstand about that. Oh, what's to misunderstand? A man's wife spends 5 years on an island with a strange man. Would you like it any better if I knew him? And it slips her mind? Can we start again? Yeah. All you can think about is the way I behaved with this poor little... Okay. With this poor little fly. All you can think of is... how I behaved with a very poor little man who wouldn't harm a fly. Yeah, one more. That was good, though, huh? I mean, how long does it take to tell a woman, my wife's back? It takes me 2 seconds. It's taken, you've had 2 days. Sorry, George, but we can do it. Something's Got to Give è destinato a un fallimento. La produzione è già in ritardo. Marilyn è una star da più di 10 anni e della star ha tutti i difetti. Non rispetta le convocazioni, fa i capricci, ma è così maledettamente bella. Durante le riprese arriva l'invito a New York per la cena di gala in onore del presidente. La produzione le intima di non parteciparvi. Al diavolo il film, al diavolo la carriera. Ben presto sarebbero arrivate altre attrici, più avvenenti, più giovani soprattutto. Norma sente avvicinarsi la sua ultima occasione. JFK dice che l'ama, ma è sposato con Jackie. Jackie che vuole divorziare perché il marito è un erotomane che va a letto con tutte. E non sta per niente bene. Dottore, può mandarmi delle altre medicine? Le ho già date alla signora Lincoln. Delle medicine in più? Certo, le ha sulla scrivania. Gliele porta all'alloggio? No, nel mio ufficio. E che mi dice di quelle pilloline blu? No, quelle non le ha. Gliele faccio portare. Kennedy soffre del morbo di Addison, una carenza di ormoni che gli impone di assumerne ingenti quantità. Si dice che questa terapia farmacologica gli abbia stimolato una sessualità compulsiva e che Marilyn sia solo una delle sue numerose vittime. Ha inoltre un forte dolore alla schiena. Con un intervento mal riuscito gli hanno saldato 4 vertebre e il dolore non passa. Ecco il perché di quelle pilloline blu. Kennedy è un gran politico, ha una vita blindata, si concede tutte le scappatelle che vuole. Perché dovrebbe assecondare un love affair più serio con un'attrice? Forse perché quell'attrice si chiama Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Marilyn lascia il set nel quale è impegnata nella pausa pranzo del 17 maggio, a bordo di un elicottero. La troupe l'ha vista volare via, 110 persone che temono che con lei prenda il volo anche il loro lavoro di lì a breve. Il 19 maggio al mattino Marilyn è allegra. In fuso bianchi, maglioncino, foulard e immancabili occhiali scuri, si reca al Madison Square Garden per le prove. Mentre tutti provano il loro pezzo, Marilyn dà un'occhiata in giro, prova le luci, 2 passi sul palco e si eclissa da par suo. Lei è la star, lei non ha bisogno di provare. Sa già la sua parte alla perfezione, una parte che giocherà con la voce e il suo meraviglioso corpo. Ha fatto incidere la cassa di un Rolex d'oro con la sua dedica, a Jack, con amore, Marilyn. Lo show può iniziare. Marilyn comincia presto le danze, precisamente in camerino, in compagnia dei suoi cocktail preferiti. Pillole rosse, blu, gialle, shakerate nel Dom Perignon. Intanto in sala, Pete Lawford, il ruffiano del presidente, sfodera tutto il suo savoir-faire per giustificare i ritardi di Marilyn. Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only talkatudinous, but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe. Marilyn non esce sul palco, sta piangendo. Ha strappato l'abito e un team di sarte lo sta riprendendo. Il presentatore insiste. A woman about whom it truly may be said she needs no introduction. Let me just say, here she is. No, non è ancora il momento. Quell'abito è difficile da indossare, anzi è impossibile. È stato disegnato da Jean-Louis, lo stesso stilista che ha fasciato Rita Hayworth in Gilda. È di una seta speciale, tempestata da migliaia di pietre del Reno. Va indossato senza biancheria. Nelle parti intime vengono sovrapposti strati su strati di seta per evitare trasparenze. È costato $12,000, circa 60.000 euro di oggi. Verrà battuto all'asta nel 1999 per 650.000. But I'll give an introduction anyway, Mr. President, because in the history of show business, perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Sì, è in ritardo. The late Marilyn Monroe è sul palco adesso. Lascia al cicisbeo presentatore la stola e rimane in tutto il suo splendore. JFK ripete in continuazione un'espressione molto poco presidenziale. Che culo, che culo. L'hanno sentita tutti i suoi vicini. Ma adesso la parola è di Norma Jean. Due minuti che hanno fatto la storia pop degli Stati Uniti d'America. For all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday! Marilyn canta Happy Birthday. Dentro di sé spera che ci sia un po' di felicità anche per lei, mentre la torta gigantesca, con 45 candeline, entra trionfale sulle note della Big Band. Faranno tutti a gara per posare con lei nel dopo serata. Tanto Jackie, la First Lady, non c'è. Ha deciso opportunamente di non essere umiliata in quella festa di compleanno, nella quale è stato offerto al marito un regalo incartato per benino in 60.000 euro di carta con le perline. Tutta l'attenzione è solo per Marilyn. Un party privato l'aspetta. Norma e JFK sono ora al Carlisle di New York, in camera da letto. JFK finge di promettere ciò che non vuole mantenere. Alla radio, un amico italiano che canta. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool? Mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. And each time I because I've got you under my skin, and I like you under my skin. Destini incrociati. I destini incrociati di oggi sono quelli di Norma Jean, in arte Marilyn Monroe, e John Fitzgerald Kennedy, il primo presidente americano nato nel XX secolo. La più bella attrice di sempre è davanti a un momento cruciale nella sua vita. La carriera non le sta più dando quello che cerca, e alla fine, e vuole ancora di più. Ambiziosa, fragile, Marilyn. Il 1962 è un anno intenso. I Beatles ottengono il loro primo contratto discografico e sono in studio per registrare l'album Please Please Me, che uscirà l'anno successivo. Glenn è il primo astronauta a orbitare attorno alla Terra. La missione si chiama Mercury e a breve ne seguiranno un altro paio con lo stesso nome. Papa Giovanni XXIII convoca il Concilio Vaticano II, un evento mondiale che modernizzerà la Chiesa e che si concluderà 3 anni dopo. Un giovane di 24 anni, tale Phil Knight, ha ideato una scarpa leggera per correre e ha in mente il nome da dare alla sua ditta che la costruisce. Gli piace quello della Dea della Vittoria, in greco Nike. È il 20 maggio del 1962. Al Madison Square Garden di New York si è appena svolto un evento straordinario. Numerose star si sono ritrovate per festeggiare il compleanno di John Fitzgerald Kennedy. E ora sono a festeggiare nel party dedicato ai VIP. JFK è più di un presidente. È una speranza per generazioni di neri che vedono concreta la possibilità di veder riconosciuti i loro diritti. È una speranza per gli europei, che immaginano, vanamente, che i due blocchi, quello democratico e quello comunista, si avvicinino. E soprattutto la concretezza di un sogno, quello americano, fatto di promesse e di sviluppo. Il popolo americano per JFK è una fidanzata alla quale promettere la luna, cosa che farà mantenendo la parola data anche dopo il suo assassinio. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Quel 20 giugno JFK è già al lavoro. E per Marilyn non è un buon giorno. Ha salutato Maria Callas la sera prima, anche lei amante di un potente. Entrambe ignare che a distanza un confronto tra donne le legherà per la vita. Lei è Jackie per John, Jackie e Maria per l'armatore Onassis, qualche anno dopo. Chissà se le due donne nel salutarsi hanno visto l'una negli occhi dell'altra la delusione per un amore non corrisposto, il sapore clandestino di una vita nascosta. Marilyn non è riuscita a strappare nessuna promessa al presidente. Ha capito che John non è solo sposato, ma è anche innamorato del suo ruolo di leader e interprete delle speranze del mondo. Per lei c'è solo un presente, fatto di celluloide. Adesso deve tornare sul set. Something's Got to Give perde ogni giorno il 6% del budget. Le maestranze la stanno aspettando, Dean Martin con loro. George Cukor, il regista, la vorrebbe sbranare viva. Intanto la 20th Century Fox non può permettersi altri passi falsi. Ha puntato tutto sulle sue due star di punta. Una è Marilyn, che disastro. L'altra, Liz Taylor, è impegnata in Italia in una produzione, è il caso di dirlo, faraonica, che sta dissanguando le casse della Major. Si tratta di Cleopatra. La Fox è veramente nei guai. Deve assolutamente fermare le spese. Cleopatra costa una cifra folle, ma almeno gli attori si fanno trovare sul set in orario di convocazione e sapendo le battute a memoria. Marilyn torna sul set controvoglia. Ride, scherza, ma dentro di sé è devastata. Di quel film, che non uscirà mai nelle sale, verrà ricordato un nudo meraviglioso girato proprio in quell'occasione e una voce di donna che chiede di essere coperta perché ha freddo. Dopo allora, Marilyn non si presenterà più sul set e la produzione di Something's Got to Give viene interrotta. È Marilyn che ha deciso e conosce le conseguenze. Viene licenziata in tronco. In molti vedono in questa decisione la fine della carriera dell'attrice. Una decisione presa sull'onda della delusione amorosa con JFK. La Fox si getta contemporaneamente alla ricerca di una sostituta, ma Dean Martin, il coprotagonista, non ci sta. I said, you know, you better look at Martin's contract with you guys. Alla notizia, Dean disse che secondo il suo contratto voluto dalla Fox, se fosse stata cambiata l'attrice protagonista, lui avrebbe potuto rifiutarsi di portare a termine il film. Ed è quello che accadde. And of course that's what happened. È il giugno 1962. Marilyn è distrutta. Continua incessantemente a chiamare alla Casa Bianca e chiede di parlare con il suo amante. Lo ha soprannominato The Press, abbreviativo de Il Presidente. Ma The Press ha dato istruzioni precise. Nessuna telefonata dalla signora Monroe può raggiungerlo ormai. Il numero che aveva, quello diretto, non è più attivo. Telefona allora al centralino anche 80 volte in un giorno, dichiarando persino la propria identità. Uno scandalo intollerabile. Anche perché Jackie ha fatto capire al marito che ancora un passo falso e avrebbe messo in crisi il matrimonio. Un colpo mortale ai piani di rielezione del presidente. JFK ha deciso, o meglio, ha scaricato la donna più bella del mondo. Il rischio è troppo alto. Gli viene sottoposto un rapporto dell'FBI nel quale si sottolinea l'instabilità mentale dell'attrice. I tempi sono cambiati, come canta Bob Dylan. Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Marilyn non ci sta a passare per pazza. Tenta di reagire, ma è sola. Concede un'intervista a Richard Merriman per la rivista Life. In un grande articolo su Life, l'obiettivo di Marilyn era confermare che in fondo era ancora viva. Era ancora Marilyn Monroe. La casa era vuota, virtualmente priva di mobili. Ci siamo accomodati in questa stanza vuota e lì abbiamo fatto l'intervista. Siamo stati insieme 3 ore. Abbiamo aperto una bottiglia di champagne. Lei beveva e andò subito su di giri. E all'improvviso fu travolta dalla rabbia. Era arrabbiata con gli studios. Essenzialmente si mostrò per quello che era. Una donna molto ansiosa, arrabbiata, impaurita. Marilyn ha paura. Di cosa? Probabilmente di vedere crollare la sua immagine, ora che sono crollati irrimediabilmente i suoi sogni. Mi disse, non farmi uno scherzo. Mi fece capire che a un certo livello sociale, da certe persone, era stata trattata come un gioco. Facile immaginare a chi si riferisse Marilyn. Adesso bisogna resistere e sopravvivere, come canta Buddy Holly. I'm gonna tell you how it's gonna be. Gonna give your love to me. I wanna love you night and day. You know my love will not fade away. Oh well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. Try to show it when you're driving me back. love with me got to be real. For you to know just how I feel. A love for real not fade away. Marilyn Monroe incrocia il suo destino con quello di JFK, un destino di passione, fama, giochi di potere, morte. Nel maggio del 1962, il presidente Kennedy è celebrato per il suo 45esimo compleanno ad una festa di gala al Madison Square Garden. Marilyn è il suo regalo, incartato in un abito da sogno. Sarà quella l'ultima volta che i due si incontreranno clandestinamente tra le coperte del Carlyle Hotel di New York. Kennedy l'ha scaricata. Marilyn è disperata. Non è solamente la fine di una storia, è la fine di un sogno, di una vita diversa, lontano dal set, ma non meno esaltante. Il consiglio di lasciare l'attrice arriva dai più stretti collaboratori del presidente, tra i quali il fratello Robert, attorney general alla Casa Bianca. Robert guida i servizi e riceve rapporti dall'FBI che non vogliono che il presidente si esponga troppo. Marilyn è sorvegliata dalla mafia, dall'FBI, dalla CIA. Tutti per qualche ragione vogliono ottenere elementi di ricatto. Robert Kennedy va nella casa della Monroe. Ci va da corteggiatore o da amico? È lo stesso. Deve far sparire ogni riferimento alla famiglia del presidente. Il rischio è che uno scandalo travolga i Kennedy. È il 4 agosto del 1962. Marilyn era chiaramente in una fase maniacale. Aveva sul comodino una quantità incredibile di farmaci. Credo che ebbe un improvviso attacco di depressione, non so se provocato o no. Poi penso che si fosse ripresa perché chiamò Peter Lawford chiedendogli aiuto. Crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing. Quel 5 agosto del 62, nella sua casa di Los Angeles, Marilyn ha lasciato sul comodino numerosi flaconi. Demerol, Phenobarbital, Amital, i suoi ultimi silenziosi compagni di vita. Norma Jean era entrata nella vita della gente normale, così come è stata estranea a quel mondo che l'ha dapprima osannata e poi respinta. Ha lasciato un vuoto incolmabile per tutti coloro che avevano colto, oltre al suo immenso fascino, anche la sua profonda solitudine. Curtain falls. Brief and simple rites marked the funeral of Marilyn Monroe. as former husband Joe DiMaggio leads a small group of friends in a last tribute to the glamorous actress. 25 persone al suo funerale. È un immenso Joe DiMaggio, immenso come il suo dolore. L'unico uomo della sua vita ad averla davvero amata. Ma andiamo alla Casa Bianca. Andiamo a capire cosa succede al vertice del potere. JFK è lanciatissimo. Sta adottando un piano per tagliare le tasse. Ha lanciato il programma spaziale che porterà l'uomo sulla Luna. Gestisce con fatica la crisi cubana e del Vietnam. Ma è un grande comunicatore e per questo su di lui si riversano molte speranze, anche nella vecchia Europa. In the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Il presidente ha dichiarato guerra insieme al fratello Robert alla mafia americana. Ma la mafia, che ha controllato la vita di Norma Jean nella speranza di screditare il presidente, sta preparando la vendetta. John fa ora l'amore con una donna che non è Jackie. Si chiama Mary Pinchot Meyer, una pittrice molto attraente, amica di famiglia. Nel gennaio 1963, Philip Graham, editore del Washington Post, denuncia ubriaco fradicio la storia extraconiugale di Kennedy. Qualche settimana dopo la farà finita con un colpo di pistola in bocca. Mary Pinchot Meyer finirà anche lei con due colpi di pistola, uno alla testa, l'altro al cuore. Un lavoro professionale. Come per il suo amante, John Fitzgerald Kennedy, non si saprà mai chi l'avrà uccisa. Non potrà più prendere in mano i suoi pennelli. In quel periodo Andy Warhol sceglie un'immagine di Marilyn da colorare in serie, che diventerà il simbolo della cultura mediatica, il simbolo della pop art. Warhol mangia pane e realtà e li trasforma in arte. Guardo sempre due canali televisivi alla volta, uno di vecchi film del passato e l'altro di notizie. Le news sono senz'altro lo show più drammatico che conosca. È vero, le news sono più drammatiche di un film. La realtà sorprende sempre più della fantasia. Sparito con Marilyn il suo diario, sparita la Meyer e devastato il suo appartamento. L'entourage del presidente ha intrapreso un'operazione di pulizia che non è ancora finita. Pulizia di ogni elemento che possa ricattarlo. E sembra averla vinta. È un gioco tra buoni e cattivi, i cui ruoli si scambiano di continuo. 22 novembre del 1963 a Dallas. Kennedy è in piena campagna elettorale. Non deve trascurare nessun dettaglio. Vuole conquistare anche l'elettorato del Texas in vista delle elezioni. La Lincoln Continental Cabriolet, con a bordo il presidente, scivola lungo la strada attorniata dal pubblico che applaude. La macchina del presidente sta ora svoltando su Elm Street e tra qualche istante arriverà al Trade Mart. Mi trovavo poco fa nella Clemens Freeway ed anche lì c'era una folla immane che aspettava di vedere il presidente che si sta dirigendo verso il Trade Mart. Un colpo di Winchester Mannlicher calibro 6,5 colpisce il presidente alla gola. JFK non cade. Il suo bustino, che indossa da quando ha un problema alla schiena, lo lascia eretto, bene in vista, bersaglio ideale per un colpo successivo. L'auto rallenta, quasi a migliorare il compito del cecchino. Jackie si rende conto dell'accaduto. Uno squarcio di 15 centimetri si apre sulla testa del presidente. In un impeto distinto, la First Lady si sdraia sul cofano della macchina per raccogliere pezzi di materia cerebrale che volano via. La Lincoln adesso accelera, va verso l'ospedale, ma non c'è nulla da fare. Un pazzo, la mafia, la CIA. Non lo saprà mai nessuno. Lui era il re, lei la regina. Di due regni diversi, lontani tra loro. Erano parte di un ingranaggio più grande che li ha usati e poi eliminati. Si sono amati, anche se in tutta questa storia la parola d'ordine è una sola. Forse. Lui, John Fitzgerald Kennedy. Lei, Marilyn Monroe. World.